Economia in pagina. Buongiorno, bentornati alla nostra rubrica dedicata ai libri di economia. Buon pomeriggio, buon sabato. Oggi parliamo di un tema in cui devo confessare ho un po' di conflitti di interesse. Parliamo di un libro che ho contribuito un po' a costruire anch'io, Abolire le province, a cura di Silvio Boccalatte. Buongiorno Boccalatte. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'intervista. Boccalatte è direttore di ricerca all'Università di Genova e fellow all'Istituto Bruno Leoni e ha scritto questo libro che si avvale della prefazione di Gianfranco Fabi che vi parla. Quindi questo mio conflitto di interesse è dato dal fatto di aver scritto appunto una parte di questo libro, ma soprattutto di essere pienamente d'accordo con la tesi di fondo di questo libro che è, come, ripeto, Abolire le province, ed è un libro edito da Rubettino Editore nella collana dell'Istituto Bruno Leoni. Ecco, un piccolo inciso, Boccalatte, l'Istituto Bruno Leoni che cos'è? Non tutti gli ascoltatori forse lo conoscono. L'Istituto Bruno Leoni è un istituto di ricerca privato, quello che negli Stati Uniti si chiamerebbe think tank, destinato a diffondere le idee liberali e liberisti in questo paese. Il nostro slogan è Idee per il libero mercato. Quindi è un istituto, diciamo, di ispirazione liberale. Tra i suoi obiettivi di fondo si è posto anche questo, di abolire le province, cioè di semplificare lo Stato, di cercare una nuova strada per spendere meglio i soldi pubblici, eliminare un po' delle sovrastrutture inutili. Perché proprio le province, Boccalatte? Ma le province sono una entità burocratica sinceramente incomprensibile per la maggior parte dei cittadini italiani. Noi possiamo chiedere al cittadino della strada che compiti ha il comune, noi possiamo chiedere al cittadino della strada che compiti ha lo Stato, qualche risposta giusta potrebbe arrivarci. Se noi chiediamo che compiti ha la provincia, abbiamo la certezza quasi matematica che il cittadino della strada ci risponderà con aria assolutamente smarrita. La provincia in realtà è un ente che, soprattutto con la nascita della regione, ha in gran parte perso la sua stessa ragione d'esistere. Il giurista che si approccia alla problematica della provincia non sa nemmeno esattamente quali siano le competenze delle province, deve cercare di individuarle e le scopre in che cosa? In aree, in nicchie ricavate in maniera sostanzialmente artificiosa tra le competenze dei comuni e le competenze delle regioni. Ed ecco qui il punto specifico, appunto, e cioè che le province hanno competenze tali che non ci sarebbe alcun problema a ridistribuire tra il livello più basso, il comune, soprattutto verso il livello più basso, i comuni, e in parte lasciare un compito di coordinamento generale alle regioni. Ecco, questo era stato previsto in alcuni progetti nel momento in cui le regioni sono state istituite, passando dalla carta costituzionale poi all'attuazione concreta. Però sono stati dei progetti, questo di abolizione delle province, che hanno avuto vita molto breve, le opposizioni sono state molto forti. Ecco, ma a chi interessa? Quali poteri stanno dietro alla conservazione di questo ente? Per la verità dell'abolizione delle province se ne parlò addirittura in assemblea costituente, se ne è poi riparlato negli anni 70 e poi ancora negli anni 90, cioè le province, di abolire le province se ne parla ormai da tantissimi anni e però effettivamente non si riesce mai a fare un passo in avanti in questo senso. C'è una fortissima resistenza da parte della classe politica, questo è indubitabile. Anche perché? Perché l'istituzione della provincia è un argomento molto forte per un deputato, per un senatore che può rivolgersi al proprio elettorato sostenendo che sì, ha fatto qualche cosa direttamente per il proprio elettorato, per la propria città di provenienza, l'ha resa un po' più autonoma, l'ha resa un po' più importante, e questo effettivamente è anche alla base della proliferazione delle province. Mi ricordo che quando ero alla scuola elementare di province ce n'erano 90, adesso stiamo perdendo il conto di quante invece sono le province in Italia. Beh, infatti c'è un capitolo del libro La Casta, che molti di quanti ci ascoltano avranno probabilmente letto, di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, in cui si dice le province sono inutili, aumentiamole. Ed è un po' la politica seguita negli ultimi anni, anche se poi è stata un po' frenata, quella di creare delle nuove province per dare dei contentini in fondo a dei territori che volevano un po' emergere e in cui forse c'era qualche potentato locale che cercava di moltiplicare un po' le poltrone, quindi di avere dei maggiori interessi e delle maggiori prebende da istituire. Addirittura la regione Sardegna le ha moltiplicate e le ha moltiplicate in maniera tale che alcune province hanno, non avendo un capoluogo ben definito, un capoluogo carismatico potremmo dire come centro di interesse della provincia, hanno questi capoluoghi divisi in due e addirittura a Trani, Barletta e Lecce mi sembra che siano in tre i capoluoghi delle province perché nessuno poteva prevalere sull'altro. Quindi la realtà è andata molto al di là della fantasia della politica, Boccalatte. Sì, la realtà è andata molto al di là della fantasia, però permettetemi, in Italia, perché io ho voluto che in questo libro ci fosse una parte dedicata, una parte piuttosto ampia, dedicata all'analisi di alcune realtà vicino a noi. Mi riferisco nello specifico a Germania e Regno Unito, che sono due realtà che dimostrano negli ultimi 30-35 anni una costante riduzione degli enti locali in qualche modo paragonabili alle province, perché non hanno esattamente le nostre province, una costante riduzione degli enti locali e una costante riduzione della spesa. Questo a prescindere dal colore dei governi che si sono succeduti e sono ovviamente cambiati nell'arco di questi 35 anni. Laddove in Italia noi abbiamo lo stesso identico fenomeno, al contrario, nonostante si siano susseguiti governi di tipo e di colore completamente diverso, abbiamo un costante aumento di enti locali, perché poi, permettetemi, oltre alle province che sono il nostro obiettivo di oggi, però si sono anche sviluppati altri enti locali della cui utilità mi permetto di dubitare fortemente, pensiamo alle comunità montane, ma mi vorrei un secondo soffermare sull'esempio della Sardegna. La Sardegna ha visto una moltiplicazione delle province e nella parte del libro dedicata all'analisi dei costi questo emerge molto bene. Insieme con la moltiplicazione delle province non si è visto una razionalizzazione della distribuzione del personale, una razionalizzazione dei costi, ma si è vista la moltiplicazione dei costi. E quindi noi possiamo arrivare a sostenere che l'aumento anche sconclusionato degli enti locali implichi un aumento sconclusionato dei costi e non una razionalizzazione e una migliore gestione del territorio. Ecco, ma la classe politica, chiamiamola così, comunque questo problema l'ha presente. Io ricordo non molto tempo fa, direi l'anno scorso, poco prima delle elezioni, entrambi i programmi, entrambi i leader in qualche modo hanno detto dobbiamo ridurre la spesa pubblica, dobbiamo abolire le province, poi aggiungevano le province inutili, facendo capire che bisognava fare una discriminazione, magari sostituendo le province con le aree metropolitane e quindi magari solo cambiando la targhetta al di fuori del palazzo dell'amministrazione provinciale, ma anche di questo non se ne è fatto niente. Ma una politica italiana allora che non ha nemmeno l'inerzia di rispettare le promesse elettorali, veramente i poteri di conservazione sono potenti in entrambi gli schieramenti? Boccalatte. Io credo proprio di sì. È molto facile proporre in campagna elettorale da parte di ambedue gli schieramenti aboliamo le province, laddove appunto l'uomo della strada vede l'idea di avere un risparmio e non vede le competenze delle province. Quando però bisogna dire al collega politico, guarda caro amico di partito, caro compagno di partito, stai per perdere il posto perché ti abolisco l'ente che tu presiedi o di cui tu fai parte, insomma, del consiglio, della giunta. È evidente che si crea un conflitto interno tale alla politica, difficilmente superabile, e se permettete c'è anche una sorta di rapporto con la necessità in generale di abolire, di ridurre la spesa pubblica. Quando si parla di riduzione della spesa pubblica molte volte non si usa il termine riduzione della spesa pubblica, si usa il termine riqualificazione della spesa pubblica, che è un modo gentile per dire no, non la diminuiamo la spesa pubblica, però vediamo un momentino come gestirla in modo diverso, ma non la diminuiamo, state pure tranquilli che non la diminuiamo. Con le province succede una cosa sotto un certo punto di vista simile, e cioè aboliamo le province, ma no, ma solo quelle inutili, aboliamo le province inutili e le sostituiamo con le aree metropolitane, e le aree metropolitane, permettetemi, non sappiamo che cosa saranno, non sappiamo che cosa sono, attualmente non esistono, abbiamo in Costituzione dal 2001 la menzione di un ente inesistente, e ciò che è più grave, attualmente nel panorama politico nessuno sa dare un quadro vagamente chiaro di quelle che potrebbero diventare le competenze delle aree metropolitane. Però io credo che effettivamente la resistenza della classe politica sarà difficilmente battibile. Serve, secondo me, una risposta forte, fortissima della società civile. E allora penso proprio che ci sarà bisogno di una nuova edizione di questo libro, perché molto probabilmente nei prossimi anni dovremo ancora parlare di questo problema, dovremo ancora parlare del fatto di attuare concretamente una politica di riduzione della spesa che passi non attraverso una diminuzione dei servizi, ma attraverso un miglioramento delle strutture e quindi una semplificazione. Grazie, io ringrazio Silvio Boccalate, dottore di ricerca all'Università di Genova e fellow dell'Istituto Bruno Leoni, autore, curatore di questo libro Abolire le province, che si avvale della nobile prefazione di Gianfranco Fabi, scusate l'autocitazione, è edita da Rubettino, costa 11 euro, a 180 pagine, ed è un libro appunto in cui si guarda al tema dell'abolizione delle province in maniera molto concreta, molto reale, anche, come dicevamo prima, guardando gli esempi degli altri paesi da cui dovremmo qualche volta ispirarci. Economia in pagina. Buongiorno, bentornati alla nostra rubrica settimanale dedicata ai libri di economia. Oggi parliamo con Daniela Preite. Buongiorno, professoressa Preite. Buongiorno, buongiorno. Parliamo del libro Il bilancio dei desideri. Beh, innanzitutto chieda Daniela Preite, docente presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano e l'Università degli Studi di Lecce, oltre a svolgere incarichi accademici e attività informative di alto livello, coordina un network che annovera i più importanti enti locali d'Italia presso la SDA Bocconi. Quindi, ecco, Il bilancio dei desideri è un libro tecnico sul come si redige il bilancio negli enti locali, nelle entità territoriali, oppure un libro di matematica applicata sulle annotazioni di bilancio, professoressa Preite? No, in realtà di tecnico c'è solo una metodologia che aiuta un po' a guardarsi dentro. Cioè, si tratta di una piccola fiaba che rivela una sua morale, praticamente dice che solo realizzando i desideri autentici si può essere felici, e questo lo faccio tramite un bilancio, visto che insegno contabilità mi sono appunto dilettata a fare questa cosa, cioè mettere la razionalità, quindi il bilancio, al servizio della fantasia, quindi uso questo bilancio per cercare di scovare quella che è l'autenticità in ognuno di noi. Ecco, quindi togliamo subito dal tavolo il fatto che sia un libro tecnico, e si parla di bilancio, ma non si parla di numeri. Si fa un bilancio, almeno i numeri ci sono, ma sono numeri molto piccoli, sono numeri che indicano delle classifiche, dei valori. Esatto. Quindi non tanto il dare e l'avere, le entrate e le uscite, le perdite, se ci sono, o gli utili, se più fortunatamente ci sono. Quindi diciamo più un bilancio morale, un bilancio di una persona che ha di fronte il proprio futuro, le proprie scelte, che deve sapere come comportarsi. Sì, un bilancio che in qualche modo aiuta a vedere che cosa vogliamo veramente dalla vita, perché è successo, almeno io mi sono trovata spesso a leggere dei libri dove ti dicono quali sono i propri obiettivi, come raggiungere, diciamo, i propri obiettivi, e quindi vedevo che mancavano invece dei testi in giro che aiutano proprio a guardarsi dentro e a definirli questi obiettivi, individuarli. Quindi ho cercato di dare una mano in tal senso, l'ho fatto su di me, ha funzionato, ho detto perché non provare, insomma, ad aiutare qualcuno che ha voglia di farlo. Ecco, il protagonista di questa fiaba si chiama Perfettino. Come mai questo nome? Perfettino perché è un personaggio che ha l'ansia da prestazione, perché ha voglia di fare tante cose, ha voglia di avere una vita perfetta, quindi sia in senso materiale che in senso materiale. Allora che cosa succede? Perfettino è il personaggio tipico che vuole avere un'esistenza perfettamente organizzata, un progetto di vita con tappe da raggiungere, tutte già scritte da un tempo e poi conseguite, un lavoro prestigioso, una bella casa, un matrimonio e due figli, e quindi pensava che questo poteva renderlo felice. In realtà scopre che così non è, perché gli manca una parte importante, cioè se stesso. Ecco, infatti nella sua presentazione Elio Borgonovi, direttore dell'IPAS dell'Università Bocconi, scrive: questa fiaba di Daniela Preite ci aiuta a riflettere su alcune delle contraddizioni che ogni serio professionista vive ogni giorno, e tra queste c'è il perfezionismo, che ci rende prigionieri per il semplice motivo che la perfezione non è di questo mondo, per esatto. Chi ancora crede nelle fiabe, e che la ricerca della perfezione è una continua gara per l'uomo, che essere pensante, orientato al continuo miglioramento di sé, secondo chi ha una visione laica, scrive Borgonovi. Quindi la perfezione è un dato soggettivo. Sì, sì, è un dato soggettivo, più che altro è una condizione, credo, cioè io mi sono trovata ad essere anche un po' perfettina nella mia vita, quindi l'ho vissuta questa situazione. Credo che sia una condizione che uno vive in un certo momento della propria vita, quando soprattutto vuole conseguire tante cose, e quindi ha questa tendenza alla perfezione. In realtà diventa un po' prigioniero poi di se stesso, diventa prigioniero di questi obiettivi. Ecco, un'altra contraddizione che viene affrontata nel libro è la differenza in fondo tra bisogni materiali e bisogni immateriali. Anche questo è importante anche nella vita aziendale? Nella vita aziendale sicuramente, perché comunque i bisogni materiali sono quelli che servono appunto ad avere una tangibilità del bene, e quelli materiali appunto non sono tangibili, ma soprattutto nella vita che noi conduciamo tutti i giorni, perché con i bisogni materiali, mi riferisco alla casa per esempio, piuttosto che a un conto in banca, ci aiutano a stare meglio nell'immediato, però abbiamo bisogno anche di quelli immateriali, quindi non tangibili, come l'affetto dei nostri cari, che ci aiutano comunque a stare meglio nel sociale con gli altri. Non potremmo vivere senza una di queste due componenti, credo. E quindi si può pensare che ogni tanto la perfezione possa essere nel compromesso, che è una frase che potrebbe essere molto contrastata e che sicuramente va un po' contro la mentalità corrente. Il compromesso è un po' un cedere qualcosa per avere qualcos'altro, ma forse nella vita dobbiamo rassegnarci a fare della perfezione i nostri compromessi? Ma più che un compromesso inteso in termini riduttivi, e quindi come se fosse un'accezione negativa, lo vedo proprio un compromesso per stare meglio, cioè una maggiore attenzione a se stessi, una maggiore attenzione alla propria autenticità, alla propria anima, cosa vogliamo veramente dalla vita. Quindi se noi non lo facciamo, e quindi stiamo andando contro noi stessi, in realtà stiamo facendo la cosa peggiore che si possa augurare al nostro peggior nemico. Quindi più che compromesso è proprio voglia di stare bene. Quindi in prospettiva e anche in conclusione possiamo dire che questo libro, Il bilancio dei desideri, lo ricordo, è in fondo un manuale per chi voglia trasferire nella propria esperienza personale alcune logiche che dovrebbero essere nell'esperienza aziendale, facendo un po' un business plan, dandosi degli obiettivi che siano realistici, e su questi obiettivi misurare poi i risultati raggiunti. Sì, questo libro diciamo che in primis aiuta a individuare quelli che sono i veri desideri, quindi dà una mano in questo senso. Questa è una cosa importante, perché il rischio è che se noi conseguiamo degli obiettivi che non ci appartengono, questo genera stress, ansia da prestazione e frustrazione. Quindi aiuta innanzitutto ad individuare quelli che sono i veri desideri. Questo chiaramente insieme ad altri desideri che comunque sono necessari per stare meglio con noi stessi, ma anche con gli altri. E comunque essere anche aperti a sfruttare e vivere l'imprevisto. Esatto, beh, quello è fondamentale perché ci dà, diciamo, gli stimoli poi per vivere una vita sempre migliore, ecco. Grazie mille, grazie alla professoressa Daniela Preite. Abbiamo parlato del libro Il bilancio dei desideri, realizzare i propri sogni per essere felici, è edito da Sperling e Kuffer. Si legge abbastanza rapidamente perché è una fiaba, anche se ha 116 pagine, costa 13 euro. Grazie, ma prima di concludere vorrei segnalarvi un altro libro, un libro che parla della condizione giovanile. L'autore è Massimo Livibacci, uno dei maggiori demografi italiani, è professore di demografia appunto all'Università di Firenze, è collaboratore di Repubblica e ha scritto questo libro Avanti Giovani alla riscossa, dedicato al mondo giovanile. In copertina ci sono dei giovani in sella a una Vespa con un'aria molto felice, direi, felice di affrontare un mondo che tuttavia è molto complesso. È difficile. E nell'introduzione Livibacci scrive: queste pagine non dettano ricette, ma raccolgono prove, indizi ed elementi su un tema che va posto al centro del discorso pubblico. Si tratta del progressivo indebolimento delle prerogative dei giovani avvenuto negli ultimi 2 o 3 decenni, che li ha resi protagonisti sempre più pallidi della società contemporanea. I giovani, continua Livibacci, hanno ceduto spazio e contano assai meno di un tempo nella politica, nell'economia, nella cultura e nella famiglia. E questo indebolimento si è prodotto contemporaneamente al loro declino numerico assoluto e relativo avvenuto per ragioni demografiche. Ecco, qui si intreccia appunto il problema demografico, il fatto che in Italia i giovani sono meno di un tempo, le famiglie hanno pochi figli, sul fatto che questi giovani hanno una minore rappresentanza politica, cioè che li ha chiamati la generazione invisibili. Questo libro analizza questa realtà e cerca anche di proporre delle vie d'uscita concrete perché ci sia attenzione da parte della politica, da parte della società alla condizione giovanile, una condizione che è fondamentale perché sui giovani in fondo è costruito il futuro del paese. Allora ricordo questo libro, Massimo Livibacci, Avanti giovani alla riscossa, come uscire dalla crisi giovanile in Italia, edito dal Mulino, costa 10 euro a poco più di 100 pagine, un libro che si legge agevolmente, ricco anche di grafici e di numeri, ma che va un po' al fondo del problema, rendere i giovani capaci di essere protagonisti. Questo è un compito che in fondo ognuno di noi dovrebbe avere. Grazie a quanti ci hanno seguito, l'appuntamento è per la prossima settimana.